Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. L'armamentario dei pezzi di ricambio per il corpo umano è sempre più ricco: protesi di articolazioni, protesi neurosensoriali come per esempio la coclea artificiale, defibrillatori e pacemaker, per non parlare di protesi dentarie, di viti, di bulloni usati ormai da anni, insomma, per riparare le ossa rotte. Sempre più pazienti si trovano alla fine uno o più di questi oggetti impiantati nel corpo. D'altra parte, questi interagiscono o creano problemi con alcuni esami, e in particolare con la risonanza magnetica, che è una delle tecniche diagnostiche più affidabili e precise e perciò anche una delle più gettonate. Un impianto che contenga materiali ferromagnetici, per esempio, può rappresentare un rischio addirittura per la vita per un paziente che, insomma, incautamente si sottoponesse a una risonanza magnetica avendo qualcosa del genere nel proprio corpo. Ecco perché si sta lavorando a materiali biomedicali e anche ad apparati il più possibile compatibili con la risonanza magnetica. Ne parliamo con Sabina Strocchi, fisico medico dell'ospedale di Circolo di Varese, consigliere dell'AIFM, l'Associazione Italiana di Fisica Medica. Buonasera Sabina, benvenuta. Anzi, ciao, bentornata. Buonasera Maurizio. Allora Sabina, che cosa può succedere se un paziente con un impianto, diciamo così, sbagliato si infila dentro una di queste macchine per la risonanza magnetica? Beh, diciamo che il livello di rischio è molto vario a seconda di, certo, di che cosa fa questo paziente e che impianto ha. In realtà il problema fondamentale deriva dallo stesso funzionamento della risonanza magnetica, che è un dispositivo che per funzionare genera tre tipi di campi magnetici e elettromagnetici. In realtà, diciamo, un campo realmente magnetico, statico, fisso, come molto, quello molto di una calamita, ma potentissimo. Esatto, veramente tu decine di migliaia di volte più forte del campo magnetico terrestre. Ecco, mi facevi un esempio: cosa succede se uno entra con un cacciavite nella stanza della risonanza magnetica? Sì, sì. Se lo sente strappar via, non riesce a tenerlo. Via, ma non riesce a tenerlo, quindi veramente sono successi nel mondo alcuni, certo, incidenti, per fortuna pochi, di gente che magari per cambiare una lampadina è entrata con una sedia metallica e non ha potuto trattenerla, con rischio ovviamente per chi eventualmente fosse nella traiettoria. Ah beh, della, certo, sedia. Certo, sì, sì, sì, infatti, perché poi quella sedia entra nella macchina e non la si tira fuori più, bisogna spegnere tutto, smontare, sì, la, sì, macchina, sì, praticamente. Sì, sì, esattamente, è anche un danno economico, ecco, non trascurabile. Ecco, quindi se uno ha una vite in acciaio, diciamo, impiantata dentro un osso o una protesi o un materiale di questo genere, viene spostato, si strappa, cosa succede? Sì, sì, beh, diciamo che a seconda, quando proprio deve fare l'esame, quindi viene posto nella parte più intensa del campo magnetico, questa si può spostare, ruotare, può essere sottoposta proprio a delle rotazioni, delle trazioni. E quindi la cosa fondamentalmente molto rischiosa per la vita è se questi materiali ferromagnetici fossero nelle vicinanze di strutture vitali, come grosse arterie, piuttosto che nel cervello o nel cuore. Questo è assolutamente da evitare. Ecco, ci sono altri esami che possono essere compromessi dalla presenza di impianti oltre alla risonanza magnetica? Beh sì, diciamo che i materiali metallici in realtà sono un problema anche per la TAC, per esempio, che pur basandosi sui raggi X, però sono, diciamo, hanno dei problemi di ricostruzione dell'immagine, okay, nel senso che possono esserci dei grossi artefatti nelle immagini che rendono le immagini confondono il macchinario, diciamo così, se è detto un, diciamo, po' brutalmente. L'altro livello di problemi sono se invece uno ha magari un materiale che non è ferromagnetico però è metallico, e in risonanza magnetica questo può dare luogo a dei problemi ulteriori, perché oltre al campo magnetico statico sono presenti dei campi velocemente variabili nel tempo, campi elettromagnetici, sì, dell'ordine dei kilohertz, e campi a radiofrequenza dell'ordine delle decine di megahertz. Questi due tipi di campi possono dare problemi. Il secondo, quello dei megahertz, è soprattutto problemi di riscaldamento, proprio provocare scottature. Sì, sì, sì, un pezzo di metallo si surriscalda, è un, esatto, po' il principio della pentola a induzione, sostanzialmente, esattamente, surriscalda. Esattamente, se io ce l'ho, sì, impiantato dentro non va bene. Non è bello, no, così, no. Esatto. Mentre quelli velocemente variabili nel tempo dell'ordine dei kilohertz possono confondere, come dicevi tu, proprio dei dispositivi eventualmente impiantati, dei dispositivi elettronici come pacemaker, stimolatori cardiaci, cose di questo genere. Ecco, allora c'è qualche materiale o qualche tipo di impianto che è compatibile con la risonanza magnetica, che, diciamolo, non ha grandi competitors, cioè non ci sono altre tecnologie per ottenere le stesse immagini nell'RMN. Ecco, quindi, sì, si adattano gli impianti, no? Sì, esatto. Diciamo, la ricerca e la tecnologia attualmente sta lavorando proprio su questo fronte, nel senso che si vuole passare da dispositivi che sono pericolosi oppure non sono pericolosi ma producono artefatti sull'immagine e quindi rendono inutile l'esame, a dispositivi che non sono pericolosi e che non producono artefatti sull'esame. Questi dispositivi già esistono, sia materiali per le protesi, magari non metalliche. Ci sono ceramiche, per esempio, esatto, piuttosto che cristalline di vario genere, eccetera. Per quanto riguarda i dispositivi, ci si sta lavorando, però, per esempio, ad oggi i pacemaker, per essere sottoposti a riesame di risonanza magnetica, devono essere posti dal cardiologo in una sorta di stand-by, cioè non possono funzionare nella loro modalità normale, pur avendo magari impiantati dei pacemaker che vengono detti RM conditional, cioè compatibili con la risonanza magnetica, ma non lo sono al 100%. Su questo si sta lavorando, in sostanza. Va bene, grazie allora. Grazie Sabina Strocchi. Grazie a te Maurizio. D'accordo, anche per questa sera è tutto. Appuntamento a lunedì.